Buongiorno e bentrovati con l'appuntamento do meteo. Oggi andavimo a vedere un poco se potevamo uscire da casa. Il cielo è nuvoloso e scicalia per tutto il pomeriggio, quindi portatevi l'ombrello perché non sappiamo che fine facciamo. I temperature su vasci, facciano freddo che si muore terra senta all'ossa. Il vento è forte, mettetevi la sciarpa, occupatevi l'occhio perché potete pigliare un po' di cose all'occhio, insomma, un po' di congiuntivite, orzaiolo e tutto il resto appresso. E il mare è mosso e i bagnarotti non escono, quindi ho niente sardi, niente alici, niente spatola. Arrivederci e ci vediamo alla prossima ora.